giallo, quindi va quasi a manetta, tutta la linea nera, diciamo, come ce n'è uno giallo e uno nero, e quindi spinge molto. Invece questo qua è stabile, neanche uno arriva, figurati. Ascolta, quello che non arriva neanche uno, qual è? Quello strumento nero? No, quello con lo strumento giallo. Quello nero invece è proprio il mio primo che avevo nella stazione della Peolce. Quello spinge ancora più di questo, però ormai ho messo con l'altra radio, quindi... No, io ne ho quattro, due a strumento nero che non sono a norma CE, mentre quelli a strumento giallo sono a norma CE. Quelli a strumento giallo si muove pochissimo, quelli con lo strumento nero invece anche il mio, vedi adesso, ora, supera quasi la soglia gialla, capito, tutte e due, mentre gli altri invece non arrivano neanche a metà. Allora già è così, dai. Vabbè, dai, date il cambio a Profetta. Venga, sì, mi sono assentato perché me lo mangio della vita e quindi ho staccato un attimino, adesso che ho finito ho ripreso. Buonasera a tutti, comunque, ciao Tino, ciao Marco e niente, quindi adesso sono operativo. Ciao, poi io facevo adesso l'ordine a cavè. Già, stacca. Ma adesso l'ho ordinato adesso perché a me piacevo quelle al taglio, vabbè. Prima le prendevo lì via Rosena, adesso non le porta più a casa. Se no ti mangia un po' la modulazione. Devi regolarlo bene, metterti un segnetto, quando attacchi devi abbassare il più possibile il fate della radio. Marco, vieni avanti. Sì, ma non attaccato perché c'è quello che non ha fatto. Ah, potidini, lascialo va, è un cretino. Ragazzi, io sto mangiando e se mi avete rilanciato prima, bianco per me. Mangia e mastica piano, capito? Non si sa mai. Avanti ti. Fai. Figurati. Marco, figurati. Ma per mangiare c'è sempre tempo, quindi. No, questa è sempre come l'ho lasciata la volta scorsa qua. Non vai in saturazione. No, io va bene. Beh, Gianni, infatti anch'io non ho fatto, però insomma non ho detto niente perché effettivamente qua lo crepava, però magari normale non passava. Perché è sopra di voi e quindi vi prende in pieno, importante. Qua è 9:20, quindi non vi fa assolutamente niente. Guarda, adesso se sta saturando. No, adesso ho già. Come ti ho detto io, anche se anziché dartene 100 te ne danno 90, non cambia niente, però la radio è bella, capito? Invece se aumenti la potenza della radio, dell'ingresso, te la porta via un po' di brutta. Vabbè, ma non tanto, già non si sente, non si capisce. Ma comunque anche così va bene. Anche così può, ma è da 60, va bene così. Vabbè, ho provato, per vedere se lo puoi. No, va bene Gianni, così va bene. Bene, soltanto Tino, siete vicino, qua è perfetta. No, vedo solo il segnale e basta, ma la radio non cambia, mentre poco fa invece ti portava via un po' di radio, capito già? E come ho fatto la prova io? Io quando inserisco il B300 lo tengo praticamente il baracchino più basso che ho. Questo ad esempio, questo che c'ha 4 watt, va benissimo, non satura. E le dà, perché darne 100, per dire, ne dà 80, ma usa già, ma la scena futti. Certo, ma non è che stai nuovo piovendo, No, non lo so perché sono sdraiato io. Io modulo molto comodo. Che tempo ho messo per domani? Sì, uguale a oggi. Tutta la settimana, con sola. No, vabbè, da fare ce n'è, però il problema è che avevamo intenzione di fare delle riparazioni sul tetto e mi sa che toccherà aspettare. Ma sul tuo? No, in Capannone dove lavoriamo noi. Ah, ma con la pioggia, a parte bisogna lasciare asciugare, dovrei salire su, 16 pesi da mano. No, vabbè, è una cosa da fare con il cestello, con il maipù, perché sono delle ombrine, quindi non è che ci puoi passare, sì, con qualche pannello riusciamo a, quelle che sono in internet riusciamo a passarci, però sai, l'internet quando è bagnato è anche più debole. Vabbè, noi dovremmo farlo, ma non in questo periodo allora. Adesso bisogna aspettare, magari dalla prossima settimana c'è di nuovo quel tempo, capito? Vediamo. Aspetta che cambia l'aria, guarda. Chi è questo? Ah, boh, non so chi è. Chi è avanti? Forse sono camionisti che parlano qua su 10, non so. Va bene che va bene, è un lavoro molto pericoloso, salire sopra queste cose quando sono le onduline, poi bagnate, mamma mia dove sto, massima attenzione. Avanti un caffè, mangiate te la pizza, e allora degli addini mangi la pizza tu. Se la mangio anche tu, allora tu faccio tornare a farmi. Ehi, no, per evitare digestioni complicate durante la serata, ho preferito mangiarmi adesso. L'ho trovato il film, quello dei camionisti, con voi, trincea l'asfalto, con il tipo anatra di gomma, l'ho trovato, adesso vediamo se riesco a scaricarlo, così rifreschiamo la memoria. E c'è un male 48, se tu guardi bene, quando lui sta parlando al baracchino, c'è un male 48 della Midland, anatra di gomma, aveva fatto una banda dei camionisti. Ma così c'è il dito, l'anatra di gomma? Avanti, chi è? Santiago Nova Radio 5, dove sei esattamente? No, non sei uscito del radio. Via Maddalena. Via Maddalena, quindi centro storico? Santiago Nova Radio 5, va bene. Grazie per il controllo, comunque è andato per oggi, non ho voglia, perché è andata come c'era l'andata. Comunque se ringrazio molto gentili, ci sentiamo a presto, grazie. Ciao Max, alle prossime. Avanti, lo profe. Ehi, bene meda, sì, dai, saluto il nuovo entrato, Max, zona centro storico, quindi siamo vizzini. E quindi niente, avanti super muscolo. Aspetta, ho detto Mansell o Masse, io sento Santiago 3 ma radio 4, nelle parti mie basso. Anche io ascolto lui. No, vabbè, centro storico un po' particolare, no, a me veniva Santiago 9, Gianni, vabbè, vicino, Max si chiama. Attimo, gli amici Max, comunque ciao, grazie, buon proseguimento. Mi ero immaginato che era il diminutivo di Massimo, dai, ciao, buonasera, ben ascoltato, 5-9, ripeto, zona scala di Ciocca, avanti sì. Via, va bene, dai, ciao Massimo. Qua invece periferia Limavel, Terrate Dolce, zona molto bassa, quindi ti ascolto più, comunque tiro muscolo da questa parte, ciao Massi. Casotto. Va bene ragazzi, dai, mi devo spostare dalla radio, che ho due cose da fare prima di fare carica, quindi niente. Ritenetevi salutati, rilancio il mic a Claudio, aspetto il finalino e poi vado via, T, qua siamo, non c'è problema, tanto sono 7:15, ancora è presto, rimaniamo ancora qua, no, non sta piovendo, ma è un freddo gani, avanti Gianni doppio ru, poi vai per la profetta. Ehi, ciao Tino, ciao, comunque venti e una continuazione in serata. Va che bro. Ega. Allora, il titolo giallo, il titolo di quel film è Con voi, cioè in italiano Convoglio. Con voi Trincea d'asfalto. È il titolo di quel film. Ah, io lo cerco poi però guarda. Sì, ci sono un paio di siti, lo puoi vedere in streaming, però io vabbè, per non stare lì a vedere la rotellina ogni tanto me lo sto scaricando. Vabbè, ci metti un po', aspetta, c'è una bassa. Deve essere. Io non l'ho mai visto quel film. Deve essere bellino. Bellino, è un bel bello. Praticamente è una banda di camionisti, capito? A capo di questa banda c'è una tra di gomma. È molto bello, se lo segue è molto bello. Io capito. Una carovana, eh. All'inizio non me lo ricordo cosa era successo, boh, comunque sono. È un bel film, una bella storia. Lui è tutto tatuato, grosso, capito, del capo di questa banda dei camionisti e si chiama Anatra di gomma. E c'è un Ala 48 sopra il cruscotto in alto, però non me lo ricordo adesso come era successo, cos'era successo, capito, però è un bel film. Ehi, vabbè, Marco sta mangiando. Tu profeta, dove è andato Gianni? Tu profeta, cosa si vede? Uscito, è andato da qualche parte, non ho capito dove. Io non lo ricordo, sì, io ho sentito anche che si stava spostando, ma non ho capito dove nemmeno io. Marco Cordo, fatti sentire, aiuto. Ho la bocca impegnata. Allora, che cosa c'è a bocca? Faina risfaldata, a dire il vero. Ieri sera era più buona, adesso proprio pucci. No, è buona lo stesso, io l'ho fatta col microonde, guarda, e mi è venuta. Cioè, l'ho mangiata la metà perché quando la prendi in certi posti, se prendi la teglia piccola te la danno appena appena. L'ho presa da Carlo Pira vicino a casa, perché la teglia piccola è enorme. E no, ma non ci abbiamo fatto nulla a mangiarla e l'ho conservata. Scaldata il giorno dopo di sera, ma col microonde, ma è venuta come se fosse appena portata. Oh no, io preferisco il fornetto elettrico già, il microonde non lo so, sembra che venga più bollita che mai. E comunque sì, va mangiata fresca la fine, c'è poco da fare. La puoi riscaldare, ma come quando esci dal forno non ce n'è, non c'è storia. Vai Claudio. Vabbè, ma se la scaldi al microonde già è buona, vai. Non è malvagia, già va bene. Se invece la mangi non scaldata, tanto rischi di affogare. Fredda è uno schifo, fredda è allucinante, no? Fredda, pucci, meglio niente. Se c'era un amico mio ci metteva il ketchup, non la farina. Ah, che schifo. Ah, che schifo. Come, quello è roba che fanno gli americani, mi. Gli americani sarebbero capaci di fare una cosa del genere. Lui dice che era una buona con ketchup. Non era di Sassari, era di fuori, continentale, era la cucina da noi. E quando ci prendevamo tutti la farina insieme, lui si prendeva la sua parte e la metteva il ketchup. E tutti se la guardavano un bel con gli occhi stupidi. Buonasera, chi è? Francesco. Ah, Francesco dalla barra pesante. Ma pretusimoci. Ehi, Francesco, ciao, buonasera, Claudio Sparviero, vai, doppio nome. Ehi, ciao Francesco, non so se mi ascolti, io ti ascolto molto basso, ma non so da dove stai modulando, doppio nome da questa parte che ti super cordializza, va? Aspetta, che l'hai calpestato, cosa hai detto Francesco? Ehi, vabbè, già siamo qua, aggancia, fai, mettiti in movimento, siamo qua, non c'è problema, avanti già. Da dove Francesco? E buono, l'ha detto. Dove sei, Francesco? Aspetta, forse se ne è sceso l'agganciare. Agganciare il muro o agganciare il lineare? Agganciare i lacci delle scarpe. Porca miseria, c'è un QRM elettrico qua. Santiago Trefisso, proprio il centro di roba elettrica. E qua è bruttina la zona, per la ricezione. Se vieni qua, c'è una telefonata, Marco. non si sente un goccio di un filo di QRM, niente. E poi quella prende meno anche quel RM con l'antenna lì. No, qua siamo stipati, un palazzo attaccato all'altro, capito? Così. Cioè, un palazzo addossato all'altro, e così è uno schifo. Io gioco a 50 metri, e ho 7.0 di QRM, e con la mantova, non è l'antenna, no, è le zone, sono. Poi in questo periodo mettono gli addobbi natalizi nei poggioli, chi sa roba c'è dei spegni, e tutte queste stronzate, sai il QRM che ti fanno, le scariche che fanno, mamma mia che... Scusate un attimo, dai, entro al volo per salutarvi, saluto tutta la ruota, niente, devo staccare per una questione di lavoro, e quindi dai, stacco e buona serata, ci sente alle prossime, ok, bye bye, a todos. Ciao Gianni, ben sentito, ci risentiamo alle prossime, dai, buon trabacco con tutto, vai Gianni, vai Claudio. Ehi, ehi, ciao, oh, già, alle prossimine, dai, già siamo qua ancora, avanti doppio. Forse al telefono. Ebbene, novità Claudio in questi giorni, nuovi entrati, nuovi usciti. No, non so, io sono sempre qua con le mie radioline a fare due chiacchiere, se si possono fare, se non si possono fare, pazienza. Ehi, comunque Gianni, diciamo, Gianni passava da attaccato, quando è attaccato passa, se no è di segnale pari e quel fischio lo disturba molto. Anche a Tino il fischio che li copre, non tanto la portante, capito? Però vedo che si è calmato. Boh, ma cosa vuoi ti dica? Anch'io a quell'età ero pigino pigione, anch'io c'avevo il ditino, capito? Il ditino che pigiava. Ma fai uno più uno, come dice la zona, subito smette. Ancora non ha capito, l'hanno già pizzicato e continua. Stiamo cercando di tutelarlo, di cercare di dare una mano e farle capire determinate cose. Lui continua, alla fine qualcuno se rompe le palle e dice chi è. Quindi fai la bravo. Io sono come San Tommaso, io non credo finché non vedo. Finché non vado lì in zona, col piede staccato, dei 960, incollato, non ci credo che lui, non ci credo. Poi tutto è possibile, se lo ti dico. E tu fidati di me, non ti posso dare altri dettagli, ti fidi di me, allora fidati. A prescindere da quello che ha fatto quella persona, tu fidati di me. Tranquillo, fidati. Ti sto dicendo che è così, quindi fidati di me. L'ho fatto io, vuoi sapere, l'ho fatto io, con un'altra persona in macchina. Fidati di me. Vogliamo vedere le prove, vogliamo vedere il video, il GPS, le riprese della zona. Vogliamo anche vedere la ripresa col PL staccato e con lo Smith a fondo scala. Assolutamente, stiamo parlando di altre cose, non è a te il pesce. Sai cosa ti posso far vedere a te? Abbassando la braghetta ti posso far vedere la punta del cornicione, almeno sei tranquillo Marco, bene va. Quello è un altro pesce, quello è un altro tipo di pesce, quello è il pesce padulo. No, no, c'è detto fidati di me, che allora non hai fiducia, fidati di me, a tutti i dì, lascia perdere, non voglio neanche parlare. Ti sto dicendo, stiamo cercando di tutelarlo e ancora continua, alla fine poi ha perso. Capito? E tu sai perché stiamo cercando di tutelarlo, no? Perché? Non aggiungo altro, però se continua e non fa l'intelligente come si reputa, allora alla fine qualcuno smonta la barracca, capito? Avanti Francesco, non è a te il pesce, dimmi. Così lontano, perché dove sei? Guarda, tu a me mi puoi sentire in tutto il nord e in tutto il sud di Sardegna. Se hai iniziato a agganciarmi dallo svincolo di Olbia è più che normale, è più che normale, perché io parlo in diretta da qua, così, in queste condizioni con Oristano, quindi ti ho detto anche dove sono su nella punta di Scala di Ciocca. quel grattacielo grande che c'è, quando tu se sali la scala di Ciocca e scendi la scala di Ciocca vedi le antenne in un palazzo alto, a circa 50 metri d'altezza, è un mini grattacielo, ok, lì abito io, quindi non ho problemi ad ascoltarti anche se tu ti allontani, fra c'è, capito? Sì, beh, Oschi di Arda, Ottieri, tutte quelle zone lì, Chivani, tutta quella zona, no? Non c'è problema, ti ascolto benissimo e tu mi ascolti bene. Avanti, doppio root, che io inizio a prepararmi. Doppio root, c'è Mania dei Bizzetti. Chi è che c'è rimasto qua? Io? Oh, non so se stiamo parlando, io ho provato a aprire lo squadro, ma non zero totale, non arriva. Purtroppo sono troppo chiuso. C'ho il ghero libera però. Stintino libera però, non sento altro. No, adesso è sicuramente su. Dove sei? Nella piana di Florinas? Francia, dove sei? Nella piana di Florinas? Già ti ho sentito io, sì. Ti sento, non c'è problema, va bene. Marco lì, dammi 2 minuti che mi preparo, vai. Ho messo le scarpe, inizio a prepararmi così appena arriva mia figlia, porto giù il cane. Ehi, dai, ci salutiamo da adesso, tanto devo pure buttare la spazzatura, dai, devi iniziare a buttare, così. E spero che non stia più avvicinando almeno. Ok, dai, ci sentiamo, buona serata Claudio, buon tutto, ciao Gianni, se anche l'ascolto, tutti gli ascoltatori, ciao a tutti, ciao. Ciao Marco, ciao, già ci sentiamo dopo, già sono qua io, sto preparando, devo aspettare mia figlia intanto. Ok, Francesco, mi allontano un attimo, ma sono qua, ok? Aspetta, 9:30, sì o sì? Via l'Italia. Infatti, 9:30, sì. Sì, adesso poi sei in zona tiro mia, capito? Sei uscito dalle gallerie, sotto le gallerie ti sentivo a Santiago Nove, che è difficile che ti senta a Sassari da lì, da sotto dove c'è la cimenteria, io ti sento benissimo, perché sono sopra di te praticamente. Adesso sei via l'Italia, sei 9:30. Beh certo, dal segnale, man mano che ti avvicini, io sono una zona molto alta, quindi non ho ostacoli. Non avendo ostacoli ti vedo, mentre stai camminando la mia antenna ti vede e quindi percepisco il segnale più alto, capito? E poi piano piano già impari, non ti preoccupare. Di dove sei? Di Sassari o di Cagliari? No, di Sassari. E allora, sei dei nostri, cosa ti affrutti? Già ti sentiamo sempre noi. Ma piaccio anche io, ho Cagliari, Olbia, sto sempre in giro. Il problema però c'è che nella barra pesante del camion deve avere un bel impianto, soprattutto un bel baracchino magari modificato corte, con l'eco, un linearettino, capite? Ma quando sei lontano noi riusciamo a sentirti, perché anche se tu senti a me per esempio nella zona che mi hai agganciato lì alla circolazione di Olbia, io non ti sento, non arrivi tu qua. Ho capito, infatti io mi sentivo l'altra sera e poi sono andato a parlare dopo Arda, però mi sentivo molto bene, aspetto che la tua sentivo pulito. Sì, Gianni, va bene, fai pure, intanto io mi sto preparando adesso, appena arriva mia figlia deve portarmi la spesa e vado a portare il cane, così fa compagnia alla mamma, dai. Va bene. Ok, Francè, dai, allora fai buon rientro, buon tutto, intanto sei rientrato a Sassari, non devi andare più da nessuna parte. E allora sei arrivato, dai, riposati. Dove sganci, a Predagneta? Ah, ho capito, credi, vabbè, dove mettono tutti i rimorchi, dai, la Zara e company. Ma lì sganci. È vero, hanno fatto quella. Ho capito. Va bene Francesco, dai, mi ha fatto piacere ascoltarti quando vuoi, però ti devi avvicinare per farti ascoltare quando sei lontano, eh? perché anche se mi senti o se senti qualche donato sicuramente non ti sentiamo. Quindi quando sei più vicino tu chiama, già ci sono io che ti ascolto, ti faccio entrare, ok? No, Francia, anche a te buona serata e buon tutto, ciao ciao. Molto fra appoggiano, perché scalda un bel. Mi piace il volo, bella tosta che va bene, ottimo per la gruppa. Poi piccolina, ritiri tutto e metti tutto dentro, come si dice, ritiri tutto e non c'è mai che c'è un mobiletto in mezzo alle, cattole. Infatti non prende molto spazio, già va bene. Appoggiavo sopra il mobile qua, ce l'avevo. È piccolina, ma è poco i cazzi. Cazzi e succia, puro. Vabbè, ci succia tu. Ma non impara a fare che cosa, bro. Luca, cari scendi, sempre nelle torrenti, a casa della mamma, a casa della vicina, a casa della vicina, a casa della mamma, ora diciamo, Luca, cari scendi. Purtroppo è così, vuole seguita quella donna, ma poi altra andata alla vicina, mamma mia. La mattina dopo che mi sistemo il cane, vado a prenderlo, ho fatto un buon giro, Luca, no, ci svaga, e vado a prenderci un po' di roba, l'ho portato da Globo. Ma vedi, ci abbiamo fatto un giretto, così ti ha un po' mosciato la visione, bus. Cappa, a me non esce un po'. Da voi va, purtroppo. E così esce, anzi c'è un freddo fuori, mi ha fatto portare il cane, ma gli butto il correttino, i guanti, più botto pesante, un po' di freddo c'è, non è andata piovendo. Ma è cominciato, mi danzo ora. Anche qua invece mi si attraverso, ho chiuso tutto, finestra, tutto. Se non va via il caldo, mia moglie si incatta, c'è ogni volta c'è con la finestra aperta. Io voglio bene, no, che vuoi ti dica. E un po' di caldo c'è magari con la stanza. Ah, papà si intende rugaggio, ecco. È piccola la casa, scalda un bel. Mi immagino, che scalda un bel. Devo dire, ricattici. E cadi a casa, andiamo da via, che la camera era grande, cavolo, e cadi a un bel. Immaginiamoci qua, che è piccola. C'è la casa, voi riscaldata, ma quando si è a letto freddo non ce n'è, perché qua il riscaldamento in automatico si spegne alle 10, 10 e mezza, ma è atteso dalle 3, capito? Quindi la casa è un bel calda, e quando sei sotto le coperte con un bigiamone, manco bai bai, me la fotto il riscaldamento a me. No, magari lo spegni, se no ti sciogli in chi vedrento. No, a volte le 10, a volte le 10 e mezza, capito? Perché è centralizzato, però almeno non sono per spegnere a casa sua, capito? Io lo lascio sino alle 10, 10 e mezza, certo lo lascia anche sino alle 11, mezzanotte, che è impianto a gas, capito? Comandato dalla caldaia, è giù, centralizzato, però ognuno dentro l'appartamento c'ha il timer, cosa, no? Io l'ho regolato dalle 3 alle 10. E poi gli altri hanno detto, mi trovo una palla coperta in più, va bene, alle 10 e mezzo. Quindi mi sembra che si spenga alle 10 e mezza. Va bene. E cosa vuoi che ti dica? Lavorando, stai lavorando male, no? Mezzo la pioggia, che... Oggi è andato un po' meglio, ma l'altro giorno quando sta piovendo forte, mamma mia! È un bel casino, copriti bene un po', perché sei giovane, poi quando sei grande, io ho giubilato in barrio di Eva, ma Eva, credimi, acqua, lavorando anche in mezzo all'acqua, proprio mezzo all'Eva. E quando ero al Covina, cercato che scendevamo in galleria, a 10 metri sotto terra, avanti di vasia rugabu, poi mio scimmio mi sembrava che avessero messo la testa dentro l'acqua, capito? E adesso gioco un montone di garraggio, tutta artrosi, mi butto faccio. Canto la pattufa, purtroppo va bene, era anche il lavoro, e cosa dobbiamo fare? Quello era il lavoro, soprattutto quando ero all'utente che facevo lettura di contatture, che forzavo l'inverno, una barriera di maestrale, diventa un freddo, tramontana, acqua, esce, per carità di Dio. Tanto sono andato meglio, ma non ho fatto incarichi, quindi un po' mi rifugiavo, ma i primi tempi erano una cosa allucinante. Ti paghi tutti da voi che ti cosi, mica? Tutti dopo li paghi. arrivo alle 2:30, cambiavo la giornata, in mattinata, in barriera d'Eva, che prendevo di acqua, che mamma mia, che... E non ti conviene la carrozza? Tra il periodo infernale. Sì, vabbè, mi trovo anche la moto a volte, quando la carica, hai capito, per non prendere sempre la macchina, perché è vicino, ma... una persona in gamba, nel senso che viva sempre molto molto vicino, noi eravamo tutti piccolini quando è morto mio padre, io non l'ho manco conosciuto, avevo 3 mesi, quindi lui era di famiglia, veniva, anche se serviva qualcosa, i lavori di casa, queste cose, anche perché era un capoturno tecnico, capito? Era un perito elettrotecnico, e quindi si occupava della parte elettrica elettrolinica, perciò era molto bravo, quindi qualsiasi cosa si rompeva a casa, la roba elettrica, che anche lui che controllava la lavatrice, frigorifero, televisore, che allora erano valvole, e tutto lui faceva, quindi per noi era una persona molto molto ben vista, capito, in prima linea come si dice. E poi in un giorno è capitato, ci ha riunito tutti, ci ha invitato tutti a pranzo una domenica, e ha chiesto lo svento, io e mamma Lucia figuriremo, cosa dite e cosa diciamo, bene state assieme, bene vi volete, sì, e allora vedi, fate, noi siamo d'accordo, è stato anche un buonissimo matrimonio, c'è tutte le foto, un filmino, c'è tutto. E manco male che c'è lui, perché noi siamo tutti lontani, più vicino al mio fratello, te l'ho detto. Lo so, e vabbè, tuo fratello è rimasto a Porto Torres. Meno male che se ne è preso cura lui. Cosa si può fare? Dopo quando succedono queste cose, che il papà non ce l'ha più, cioè, meno male che si è preso cura di lei, cioè, perché adesso una persona, cioè, soprattutto in giorni d'oggi, è ancora più difficile trovare una persona che si prenda cura anche di te, di tuoi figli, di tutto, cioè, è difficile. Certo, certo. Beh, io, diciamo, essendo più piccolo, ne ho fatto un po' una malattia, non volevo, mi sono anche un po' allontanato, poi alla fine ho ceduto, perché ho capito che stare soli non è bello, quindi ero un po' egoista, diciamo, capito? Alla fine ho ceduto, va bene così, non è che frequento molto io, non è che ci andavo, ogni tanto a trovarla, però non è che non sono al 100% con lui, ti dico la verità, perché sai, non essendo tuo padre, sono mille sfaccettature che non ti permettono di avere quel rapporto come devi avere, però abbiamo un rispetto, ciao ciao, come stai, come non stai, è finito lì, però non è che bazzico molto io, vado, sì, adesso ti ripeto, con questo Covid sono malato che non vado a casa di mia madre, ma appena possibile andrò a trovarla, ma ti ripeto, l'ho telefonata anche la settimana scorsa, come ho chiamato lei lunedì, quindi non è un problema, si va avanti, dai, l'importante è che lei stia bene, come le dico sempre, e che sia tutto a posto, di dinanzi non rimangano i quinti. Hanno una bella vecchiaia. Meglio così allora. Ma tuo padre di che cosa, se posso? Come è successo? Che non c'è più. Allora, mio padre è morto nel 1960, proprio io, diciamo, appena nato, capito? Avevo 5 mesi. Quindi praticamente l'hanno operato per un calcolo alla cystic Feller, capito? Non si sono accorti che era diabetico ed è morto di emorragia subito dopo l'anestesia. Mamma mia, e quegli anni ne facevano capolate? Beh, non c'erano le cose, una frontata, poi è contentissimo, una frontata mia madre, fatto un botto, aveva 36 anni e mamma ne aveva 32, fatto un botto, immaginate tu. Perciò mamma gli diceva, lui è contentissimo, io mamma mi ha detto con questa cosa, un vaggio, perché mi ha fastidio ogni tanto. Mio padre in quegli anni aveva la Giulietta, mamma aveva la Bianchina, era presidente del direttore dello stabilimento della Butangasi di Porto Torres, e poi c'aveva l'officina e due negozi di autorità. che ha, però mia madre già sa bene, c'è una bella casa per la torre, c'è due piani, sua, poi c'è un magazzino a fianco dove ho affittato, c'è un dentista, poi c'è una casa d'alghero, insomma già si difende bene, dai. E a voglia allora, a voglia, già, non ne ha problemi. No, assolutamente, ma non si può, infatti non ce la metta per niente le poverine, ce la metta lì, che vuole che va. No, perché il resto, grazie a Dio, già fanno bene tutti e due, lui c'ha una buona pensione, mamma c'ha una buona pensione, è dipendente dalla provincia, perché il nautico era provinciale, ora, perlomeno, adesso non so se è ancora della provincia o della regione, non lo so, però si va a lavorare. Sì, nella birrella lì, allora si lavorava, allora le circolari, dove portare le schede, coso, stanza per stanza, classe per classe, capito? Risponde al telefono, il papà, ti chiamava in segreteria, devi andare. Altri tempi, non a fare vivere una baciggiata, non fare nulla, ma una gira. Tanto ogni tanto sono i cooperativi, quindi. E allora, prima dobbiamo evaluare del travaglio, e ne pagate paghiccio. Davvero? Io no, buonasera. Io sto lavorando, mi stavo solo compiuto, l'avevo fatto già partire. Oh, andiamo, funziona. Sì, funziona, ma c'è una riga verticale nel monitor, ma già ne ho panni di recidi, già lo cambio. Ma dai, bianco per me che io vado a farmi la doccia, ci sentiamo dopo. Anto, ci sentiamo dopo, anch'io vado a fare, sono meno 20, Tutto bene, fai, poi domani mattina ti va. Vabbè, ci sentiamo anche dopo, dai. E c'è l'Inter, non c'hai Sky qualcosa? C'è l'Inter con lo Shakhtar. E devi vincermi, se non vinci oggi è un casino, Scarpa non ce l'ho, scarpa ne ho un bel. Vabbè, a te della radiolina che cosa, insomma io quando non lo posso vedere c'ho il coso, l'auricolare me l'ascolto, almeno sentire come sta giocando, come non sta giocando. Perché hanno dato la Juve ieri a Canale 5, capito? Se non davano la Juve davano oggi l'Inter, perché ne danno una ogni settimana. La settimana scorsa hanno dato l'Atalanta, capito? Adesso hanno dato la Juventus, la prossima sicuramente sarà l'Inter, o l'Inter o il Milan, non lo so. Vabbè Lucario, dai, io vado a mangiare un boccone che dietro a quell'aria e va Giovanni. Se ci sei ci sentiamo dopo, ok? Dai con calma, già sono qua io.